do il benvenuto ad Angela Bubba, autrice del romanzo Elsa. Buongiorno Angela e benvenuta ai microfoni di Radio Città Fujiko. Grazie, grazie a voi dell'invito. Allora Angela, questo tuo romanzo è un ritratto romanzesco di Elsa Morante, della grandissima Elsa Morante. Quindi ti volevo chiedere, perché hai deciso di raccontare proprio questo grandissimo personaggio della cultura italiana, Elsa Morante? Che significato ha per te la sua figura? Ho scelto proprio lei perché mi accompagna da tantissimo tempo, da quando avevo 16 anni, appunto, lessi l'Isola di Arturo, quindi da praticamente metà della mia vita, e è stato per me un incontro cruciale che insomma ha cambiato anche il mio modo di vedere la vita e di vedere la scrittura. Era quindi inevitabile, dato appunto questo vero e proprio amore nei confronti di Elsa Morante, appunto era inevitabile arrivare poi appunto alla scrittura di questo romanzo. Era qualcosa comunque che si sarebbe dovuto verificare prima o poi, ed è successo adesso. Ti volevo chiedere anche come è avvenuta la ricerca dei materiali, no, che raccontano la vita di Elsa Morante, perché tu parti dall'infanzia per poi passare alla maturità, gli esordi, l'esperienza della guerra, ovviamente l'incontro con Moravia e anche con Pasolini, insomma veramente tutta la vita di Elsa Morante. Quindi appunto ti volevo chiedere come è avvenuta la ricerca dei materiali. Sì, da un lato c'è tutta una ricerca in archivi bibliografici. Io ho anche scritto due tesi su Elsa Morante, quindi l'ho studiata anche dal punto di vista critico, e questo mi ha aiutato molto ovviamente per definire il personaggio e la persona. E centrale è stata anche l'archivio Morante, appunto conservato a Roma presso la Biblioteca Nazionale Centrale. Oltre a questo ovviamente la lettura di tutte le sue opere, e altra cosa molto importante è stato il dialogo con amici, conoscenti, familiari ancora in vita appunto di Elsa Morante, che mi hanno illuminato su particolari aspetti della sua vita, fornendomi magari ricordi, aneddoti, ecco, particolari che non potevo trovare in un libro appunto canonico, in una biografia canonica, critica, uscita su di lei. Quindi da tutta questa parte di testimonianze vive, dirette, mi ha fornito poi un altro quadro, ecco, di Elsa Morante, che è stato allo stesso modo ugualmente utile e prezioso. Assolutamente. Avresti voglia, Angela, magari di raccontarci proprio una di queste curiosità, una di questi aneddoti che non si trovano facilmente sui libri di storia che riguardano Elsa Morante? Sì, uno mi ha toccato profondamente e me l'ha raccontato il nipote di Elsa Morante, David Morante. Lui mi disse che quando Elsa andò via di casa, aveva 19 anni, disse alla propria famiglia che appunto se ne andava perché voleva seguire l'esempio di Cristo, che appunto abbandonò, tra virgolette, andò via dalla famiglia per iniziare a predicare. La stessa cosa appunto volle fare Elsa, e credo poi anche tutto questo era collegato anche al suo rapporto con la fede, che fu centrale nella sua vita. Ecco, questo particolare mi illuminò davvero il cuore quando lo ascoltai per la prima volta, ma ad ogni modo anche molti altri di cui il libro è costellato, che ho aggiunto nel mio romanzo, sono ugualmente belli, importanti, e definiscono Elsa Morante per quello che fu. Certo, assolutamente, e direi che per conoscerli tutti non ci resta che leggere appunto il tuo romanzo dal titolo Elsa, che ricordo è già uscito in tutte le librerie il 17 febbraio. Quindi grazie ancora Angela per averci raccontato qualcosina di più proprio del tuo romanzo Elsa, grazie. Grazie a voi, grazie a voi.